as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti, eccoci qui, nuovo anno. Iniziamo quest'anno con una puntata non dedicata alle questioni del lavoro, alle questioni sindacali, alle vertenze, ai contratti. Martedì prossimo molto probabilmente faremo una puntata dedicata al contratto dei metalmeccanici, come avevo detto. Abbiamo sentito le ragioni del no, adesso sentiremo anche le ragioni del sì, però voglio iniziare l'anno parlando di quello che sta accadendo in Iran. Sono stato alla manifestazione che si è organizzata l'altro giorno a Bologna, in Piazza Nettuno, convocata dal coordinamento migranti di Bologna, dalle donne iraniane di Bologna, per sensibilizzare gli italiani per quanto riguarda quello che sta accadendo in Iran. Ora, la posizione del Pane Rose sull'Iran è molto chiara. Noi siamo sempre a fianco di chi lotta per un cambiamento che porti ai lavoratori iraniani effettivamente dei miglioramenti. Noi lottiamo per chi vuole che le risorse vengano ridistribuite tra i lavoratori. In Iran accade anche questo. Certo, poi ne parleremo nelle conclusioni, dirò anche la mia, per quanto riguarda. Abbiamo intervistato una compagna dopo la fine di questo presidio, di questa manifestazione che c'è stata a Bologna, una compagna iraniana che ci ha spiegato la sua posizione, la posizione degli iraniani che non sono filomonarchici, perché la compagna non è assolutamente una filomonarchica. In quella piazza, voglio ricordare a tutti, la piazza c'è stata l'altro giorno, erano compagni assolutamente non filomonarchici. Certo, esistono anche dei filomonarchici, esistono chi vede anche di buon occhio un intervento occidentale in Iran. Sappiamo che è abbastanza variegato chi protesta in Iran, anche chi vive nei paesi dell'Occidente collettivo cosiddetto, però quella manifestazione era stata convocata e organizzata dalle donne iraniane e dal coordinamento migranti, da compagni marxisti, compagni di sinistra, compagni che lottano per la questione della Palestina, per il Kurdistan, e hanno chiaramente lottano anche per la rivoluzione iraniana. Ora sentiremo un pezzo che a me sta molto a cuore, lo mettiamo ogni volta che parliamo di Iran per non dimenticare i martiri che ci sono stati in questi anni, delle varie sollevazioni che ci sono state in questi anni. L'ultimo nel 2022, abbiamo fatto una puntata, se vi ricordate quel periodo, abbiamo fatto anche un'altra dopo, sempre riguardando l'Iran, abbiamo intervistato alcune compagne iraniane. Chi vuole ascoltare può trovarle nel podcast del Pane delle Rose. Niente, ascoltiamo questa compagna, quello che ha da dire, e poi ci sentiamo per le conclusioni. A dopo. برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خواه، خورشید پس از شبای طولانی، برای قرصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی. برای آزادی، برای آزادی، برای آزادی. Allora, siamo qui con una compagna iraniana, siamo a Bologna, oggi una manifestazione organizzata dalle donne iraniane, coordinamento migranti per l'Iran. Ho ascoltato i vostri interventi, sono interventi importanti, quello che succede in Iran per noi è molto molto importante, sono anni che seguiamo le vostre vicende, chiaramente siamo con voi al 100%, siamo per la rivoluzione iraniana. Raccontaci la tua esperienza, racconta quello che sta succedendo in Iran, quello che fate voi qui. Allora, la piazza di questa sera è stata chiamata sicuramente dall'urgenza di quello che sta accadendo in questo momento in Iran. Quello che sta accadendo in questo momento in Iran non è l'inizio di un qualcosa, ma è un ciclo costante che ormai dura da anni. Il nostro bisogno di essere qui con i nostri corpi in questa piazza stasera era per ribadire la nostra presenza per il popolo iraniano, al di là di ogni tipo di strumentalizzazione e al di là di ogni tipo di sostituzione nel discorso politico estero, italiano, europeo e occidentale. Per noi è importante essere qui oggi perché i morti, le esecuzioni di questi ultimi giorni hanno dei numeri mai raggiunti. È importante ricordarci che il popolo in rivolta è un popolo omogeneo, fatto di studenti, fatto di lavoratori, fatto di operai, e nasce da una crisi sistemica di tutto il sistema Iran, che è quello economico, ecologico, industriale. Ci sono persone che per via dell'inflazione non riescono più ad avere accesso alle risorse minime che servono per vivere una vita dignitosa. Il regime degli Ayatollah ha devastato un paese intero, non si occupa minimamente del suo popolo e in questo momento vive sotto lo stesso cielo di un popolo che lo detesta e che non lo vuole. Questo è il problema principale. Sono anni, come tu hai detto, che si combatte in Iran, si manifesta e si è arrivato vicino alla rivoluzione. Ricordiamo tutte le varie manifestazioni, non è la prima volta che scendete anche in piazza qui in Italia per sostenere il movimento delle persone che lottano in Iran. Oggi si è ricordato un po' di anni fa quando c'è stata le grandi manifestazioni. Rispetto allora, oggi è diverso, oppure siamo quando morì la compagna in Iran, rispetto a quelle manifestazioni, quelle di oggi, sono sullo stesso filo oppure c'è qualcosa di diverso? Quelle di oggi possiamo dire che sono delle lotte molto più intersezionali. L'uccisione di Gina Masamini ha portato alla ribalta nuovamente la questione di genere e la repressione totale e assurda che avviene tuttora per quanto riguarda le donne in Iran e la loro condizione di esistenza, che un'esistenza di fatto non si può chiamare in questi termini, perché vivono in modi che noi non ci possiamo neanche immaginare. I moti del 2022 sono nati prevalentemente da questa rabbia, è stato un moto transfemminista, arrabbiato, intenso, ma che non aveva un focus su quelle che sono invece le problematiche urgenti ed esplosive che in questo momento l'Iran sta attraversando, che sono principalmente quelle del lavoro e dell'economia. Quindi mi viene da dire che non ci sono lotte che si annullano, ci sono lotte che si uniscono, e quella di quest'anno, quella che stiamo vivendo in questi giorni, è una lotta molto più estesa, molto più incentrata su tutta una serie di aspetti, che in un qualche modo stanno entrando in dialogo. Nelle piazze iraniane in questo momento, e bisogna ricordare che le piazze iraniane non intendiamo solo Teheran, indichiamo anche altri centri periferici che in questo momento stanno facendo la rivoluzione mettendo al centro in pericolo i propri corpi, ma lo stanno facendo principalmente per motivazioni che riguardano tutti, l'economia, l'industria, l'ecologia, e sono tutti in piazza da tutte le generazioni. La domanda che ti voglio fare è, io mi trovo spesso a discutere con chi sulla questione iraniana ha delle titubanze, no? Sappiamo che all'interno della sinistra in Italia c'è chi non riesce ad appoggiare completamente la rivoluzione iraniana, sbagliando dal mio punto di vista, ma chiaramente quando si parla di questi problemi qualcuno dice ma però c'è l'embargo ha causato questo. Tu cosa rispondete a chi di mette la scusa dell'embargo come per giustificare in qualche modo il regime iraniano? Giustificare il regime iraniano in questo momento vuol dire essere completamente scollati dalla realtà, vuol dire anche una cosa molto semplice, cioè vivere un privilegio che ti consente anche di prendere le distanze da quello che è il discorso vero che l'Iran e il popolo iraniano sta portando in questo momento. In questo momento il rial ha un valore economico irrisorio sul mercato. Il tema è questo. Il tema possono essere senz'altro le sanzioni, possono essere senz'altro le ingerenze esterne. Il tema però qui è che il regime ha volutamente schiacciato un popolo intero per i propri bisogni, per l'estrazione del petrolio, un petrolio che esporta e che non usa per il proprio popolo, e che nonostante, parliamo appunto di un paese ricco da questo punto di vista, questa ricchezza non è una ricchezza della quale usufruisce il popolo stesso. Quindi il tema è questo. Al di là di ogni embargo, al di là di ogni sanzione, il tema vero è il regime, ed è questo che noi dobbiamo combattere. Quello che ti ho detto io lo condivido apertamente, il fatto che le risorse debbano essere distribuite con il dare del popolo, poi ci pone anche un'altra questione, il fatto che sembrano che girano intorno all'Iran degli avvoltoi che pare che vogliono, sono con voi, ma alla fine vogliono impossessarsi queste ricchezze, quello che spesso si racconta, no? Questa rivoluzione, c'è il rischio secondo te che potrebbero approfittarne chi in realtà vuole impadronirsi di queste risorse, oppure il popolo iraniano saprà far fronte, una volta fatta la rivoluzione, a veramente utilizzare le proprie risorse per se stesso? Noi non possiamo avere una risposta adesso su questo, noi possiamo semplicemente attendere che il popolo iraniano in questa fase critica e di rivoluzione si autodetermini anche nella costruzione dei propri bisogni e dei propri desideri per il proprio futuro. Io credo che ci siano delle pressioni esterne assurde, penso che ci siano delle pressioni esterne diffuse, non solo quelle tra l'altro che vengono raccontate nei media mainstream, non parliamo solo degli USA, di Trump, di Israele, parliamo di tutta una serie di potenze economiche, Russia. Che non vedono l'ora di vedere il crollo o la gloria del regime per potersi approfittare. In tutti questi discorsi manca il popolo, in tutti questi discorsi manca un popolo che non sta facendo altro che dire: non parlate al posto nostro, non sostituitevi alla nostra lotta, perché il vostro intervento è deleterio e non sta facendo altro che creare un'enorme confusione. Questa confusione ovviamente è quello che emerge di più nel discorso mediatico occidentale, in particolare è quello su cui si concentra. In tutto questo viene oscurata come sempre la voce del popolo. L'ultima domanda che ti faccio è: 2022 c'è stata una grande, veramente grande rivoluzione dopo l'omicidio della compagna. Voglio capire, è cambiato qualcosa in Iran, almeno sull'aspetto delle donne? Le donne sono più libere, oppure non è quelle manifestazioni non hanno portato a nulla? Dire che queste manifestazioni non hanno portato a nulla sarebbe sbagliato, anche perché io credo che la rivoluzione che stiamo vivendo in questi giorni sia un ciclo, e per l'appunto sia con continuità un braccio di quella stessa resistenza. Sicuramente è cambiato molto poco della condizione delle donne iraniane, in alcuni centri le donne vengono se vogliamo ancora più represse di prima, ci sono delle aree dove c'è un'apertura, ma sono delle aree prettamente borghesi, delle aree dove questo se lo può permettere perché magari i guardiani della Repubblica non passano passano da quelle parti, ma sicuramente passano da altre. In questo momento c'è un'attenzione vorace, ecco, da parte del governo della Repubblica, anche e soprattutto per le donne che si mettono, che stanno facendo la rivolta in questo momento. Sono di questi giorni le immagini di tantissime manifestanti, donne uccise e che hanno messo il proprio corpo a disposizione della rivoluzione e che oggi si ritrovano a essere tra i primi bersagli di questi guardiani. Cosa possiamo fare per l'Iran, per il popolo iraniano? Non dobbiamo pensare che questi cicli di rivoluzione possano avere un faro solo ed esclusivamente quando è di interesse al discorso pubblico e mediatico. C'è stato il Venezuela, c'è il genocidio in Palestina. Noi non possiamo pensare che l'Iran sia un discorso esterno a tutto questo tipo di a tutti questi sistemi. L'Iran è dentro a questi discorsi, l'Iran è una polveriera, dobbiamo stare attenti, perché è attraverso il riconoscimento di quella che è la complessità e la stratificazione di un paese così complesso che si riesce a evitare certe cose. Se noi siamo a questo punto è anche perché tutti i media internazionali hanno nuovamente spento un faro sull'Iran. Ora si sta rispegnendo, quello che deve accadere è continuare assolutamente a parlarne. Ti ringrazio, noi continueremo a farlo. Grazie mille. از گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو میپریم از خواب یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها یا همه با هم یا همه تنها ما که بیداریم تا فردا خاک این گندم تو خیابونه خوشه یه خشم من و تو تشنه یه بارونه حق ما کم نیست زانوی غم نیست قلب ما که دور از هم نیست دنیای تاره این یه آغازه پنجره تا رویا بازه از گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو میپریم از خواب یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها یا همه با هم یا همه تنها ما که بیداریم تا فردا. Allora, non potevamo che non fare le conclusioni con questa bellissima canzone Bella Ciao, cantata in persiano. Avete ascoltato la compagna che ci ha spiegato la posizione di chi oggi lotta contro il regime islamico iraniano, ma lotta anche contro l'imperialismo, assolutamente contro il ripristino della monarchia. E voglio essere chiaro su questo, il Pane Rosa ha una posizione molto chiara. Noi abbiamo sempre, sempre una posizione di classe, siamo con i lavoratori. In questo momento i lavoratori iraniani sono scesi in piazza, hanno scioperato, hanno manifestato per una cosa molto precisa. Lo stesso governo cosiddetto progressista iraniano, anche se si è messo sotto il regime islamico, ha detto che insomma all'inizio le proteste erano condivisibili, anche perché in Iran si sta morendo di fame. Un paese molto ricco, è vero che hanno fatto delle sanzioni, chiaramente, però c'è una situazione davvero drammatica. L'ha spiegato anche la compagna, un'inflazione alle stelle, una situazione veramente di crisi economica, inoltre non c'è manco la libertà, non c'è manco la democrazia e non c'è anche sicurezza in un certo senso, perché comunque ci sono tanti problemi in Iran. Questo fa sì che le persone fanno fatica a arrivare a fine mese e la cosa che ha spiegato anche la compagna, ed è corretta ed è giusta, che è vero che ci sono le sanzioni, ma i soldi che vengono fuori dalla vendita del petrolio che viene venduta, viene più investita per le armi e molto probabilmente finiscono nelle mani di poche persone in Iran, vogliamo ricordare, e non vengono utilizzate per povera gente. Quello che i lavoratori che sono scesi in piazza e gli studenti contestano non solo è una mancanza di democrazia, è un regime veramente pesante che pone comunque ancora dei limiti, anche se qualche passo avanti a spiegare quella compagna in alcune zone delle città, dove le città importanti, grandi, dove c'è, ha ragione la compagna, ha detto bene, dove c'è la borghesia chiudono un occhio, invece nelle periferie, fuori da Teheran, nelle zone rurali, in tutte le zone ci sono ancora i guardiani che continuano a reprimere ogni persona che esce fuori dalle classiche regole che il regime ha impostato ormai da tanti anni. Ecco perché noi siamo a fianco di chi sta lottando, ma siamo anche contro chi vuole, come degli avvoltoi, rubare le risorse dell'Iran. Vorrebbero bombardare l'Iran, vorrebbero aggredire l'Iran per far diventare l'Iran un paese satellite e sfruttare loro. Abbiamo visto cosa è successo in Venezuela. Alla fine Trump ha una cosa positiva, che comunque lo dice apertamente, che fondamentalmente lui è lì per il petrolio, no? Infatti la Venezuela sarà costretta a vendere il petrolio agli americani. In Iran molto probabilmente, io ho la mia idea, che se questo regime dovesse abbandonare la sua posizione filo cinese, filo anti-israeliana e filo russa, molto probabilmente Trump gli vendesse il petrolio agli americani, molto probabilmente non ci sarebbe nessuna questione iraniana da parte dell'America. Questa è la verità. La verità è che noi dobbiamo sostenere chi lotta all'interno dell'Iran, ma che non è perché davanti a un regime islamico si sostituisca con un regime monarchico sottoposto agli imperialisti israeliani, sionista e americano. Questa è la nostra posizione, la posizione anche di alcuni compagni che sono scesi in piazza anche in Italia e non solo in Iran. Per questo sosteniamo la rivoluzione iraniana, questo deve essere chiaro. Noi siamo contro i regimi islamisti, ma siamo anche contro i regimi. Oggi Trump parla tanto delle repressioni che si sono svolte in Iran con tantissimi morti, ma in questo momento negli Stati Uniti d'America la sua polizia fascista reprime, arresta, massacra, spara addosso ai cittadini, ed è una situazione veramente drammatica, no? Come può lui parlare di democrazia quando nel suo paese la democrazia è veramente a rischio? Ecco, come, e per non parlare di Netanyahu che dice agli iraniani siamo con voi, quando sta facendo uno sterminio di palestinesi e comunque reprime anche chi è contro di lui in Israele, insomma. E questa è la nostra posizione, però voglio dire subito, se in questo momento in Iran non tutti i lavoratori sono convinti che bisogna fare una rivoluzione, io penso che bisogna avere un'alternativa. L'alternativa non può essere assolutamente lo Shah, non può essere un'alternativa che si ritorni al capitalismo sotto qualche altro impero, sotto qualche altra gestione. Ci vuole un'alternativa socialista, marxista, di distribuzione delle ricchezze. Io penso che sia qualcosa che potrebbe smuovere tutte le masse e poter veramente arrivare a una rivoluzione completa e non vedere più tutti quei lavoratori scendere in difesa di questo regime, chiaramente prendendo le distanze dall'Israele, prendendo le distanze da tutte le altre forme di imperialismo, per una rivoluzione che ridistribuisca le risorse dell'Iran a tutti i lavoratori iraniani, a tutto il popolo iraniano. Questo può essere una soluzione, può essere anche una spinta rivoluzionaria di massa che potrebbe portare tutti gli iraniani veramente a volere un cambio di regime.